Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 1 settembre comincia un nuovo mese. Buongiorno a tutte e a tutti da Antonella Cortese. Un saluto particolare alle persone ristrette delle case circondariali dell'Emilia-Romagna e del carcere della Dozza. E bentrovati su Liberi Dentro Eduradio TV, in onda su Radio Città Fuggico, Teletricolore e Lapida TV. E sapete che il nostro è il programma che fa da ponte tra il carcere e la città e che ancora per questa settimana, in co-conduzione con me, c'è Ignazio De Francesco, volontario AVOC. Buongiorno Ignazio. Buongiorno a te e a tutti, e con un pensiero particolare per quelle persone ristrette che hanno perso il proprio compagno, la propria compagna di detenzione, che improvvisamente è stata liberata oppure trasferita in un'altra casa circondariale. Sono sempre momenti difficili di un'amicizia che si è creata nel corso degli anni e in qualche modo si deve interrompere. Sì, Ignazio, ascoltami, ma oggi continuano le lettere dal carcere, vero? Sì, continuiamo a dar voce a Lettere dal carcere, e oggi vorrei leggervi qualcosa di Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, quindi una di quelle persone che ha pagato col carcere per le proprie idee, quindi in violazione di quello che oggi noi consideriamo un diritto costituzionale. Nasce nel 1891, muore nel 1937, è stato un politico, filosofo, scrittore, tra i fondatori del Partito Comunista d'Italia, che finisce in carcere sotto il fascismo nel 26 a Turi, vicino a Bari, e poi viene rilasciato, ma in condizioni pessime di salute, nel 34, quindi dopo poco morirà per gli stenti della sua vita di detenzione. Ignazio, quale lettera hai scelto? Allora, uno ci potrebbe pensare che con Gramsci dobbiamo parlare sempre di politica, di cose, però anche Gramsci aveva una famiglia, degli affetti, una moglie, dei figli, e quindi c'è questa lettera a Giulia Schurt, che ha sposato nel 23, da quale ha avuto due figli, Delio e Giuliano, che ci fa toccare delle cose che io so, le persone che ci ascoltano dal carcere le conoscono bene, cioè i problemi di una vita di coppia e i problemi di una vita di famiglia. Allora inizia a scrivere così, leggiamo qualche riga, quello che è possibile. Carissima Giulia, mi scrivi che sei sicura, siamo nel 5 novembre del 36, che puoi parlarmi di tutto, non solo delle tue gioie, ma anche dei tuoi dolori. Ma mi parli veramente di tutto? Mi pare che negli anni più belli della nostra vita abbiamo parlato spesso di queste cose, come cioè entro un determinato cerchio di persone che si vogliono bene, ognuno finisca col credere di essere il solo capace di sopportare con forza certi dolori e li nasconda agli altri, finché si forma una specie di commedia degli equivoci. E lui dice, io credo che la verità è medicina in se stessa, quindi non possa pensare che il silenzio può nascondere cose ancora più gravi di quelle che si vogliono celare. Dunque, verità, chiarezza, sincerità nei nostri rapporti. È molto bello leggere queste parole di Gramsci, che noi vediamo semplicemente e solamente come uomo politico, invece c'è proprio uno spessore, un sentimento molto, molto acceso. E senti, ma dei figli scrive qualcosa? Certo, perché questa è un'altra parte. Chi sta in carcere non vede i propri figli che crescono. Io ho seguito una persona che ha fatto 33 anni fino alla morte in carcere, e sua figlia l'ha conosciuta solo attraverso i colloqui, praticamente molto raramente. Allora qua sentiamo cosa scrive a Gramsci, a Giulia. Quello che scrivi di Delio mi interessa, ma io ho sempre pensato che nella mia condizione sia difficile scrivere a dei ragazzi che non conosco intimamente, di cui non ho seguito lo sviluppo intellettuale e morale, di cui non sono in grado di risentire la sensibilità e le reazioni. Talvolta li immagino come dei bambini, altre volte come dei grandi. D'altronde mi pare che i ragazzi amano e sono felici quando vengono considerati come degli uguali. Perciò ho sempre pensato e te ne ho anche scritto che contavo su una tua collaborazione per tradurre, non letteralmente, ma secondo la loro mentalità, i miei biglietti a loro e per aiutarmi a comprendere loro intimamente. È un papà che attraverso la moglie, è un papà detenuto, che è Gramsci, Antonio Gramsci, che chiede alla moglie di aiutarlo a decifrare la crescita dei propri figli. È molto bella questa lettera. Senti, ma ti interrompo qui per chiederti quale brano vuoi lanciare. Allora, ascoltiamo di Francesco Guccini, uno dei suoi pezzi più famosi, La locomotiva. Ascoltiamola. Lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava forse un mostro strano. E l'uomo dominava con il pensiero e con la mano, ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite, sembrava essere dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali. Parole che dicevano gli uomini sono tutti uguali. E contro i re ai tiranni scoppiava nella via la bomba proletaria e illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione, un treno di lusso lontana destinazione. Vedeva gente riverita, pensava che i velluti agli ori, pensava al magazzorno della sua gente attorno, pensava un treno pieno di signori, pensavo un treno pieno di signori, pensavo un treno pieno di signori. Non so cosa accadde perché prese la decisione, forse una rabbia antica, generazioni senza nome, e un lavano vendetta e accecarono il cuore. Dimentico pietà, corno la sua bontà, la bomba sulla macchina a vapore, la bomba sulla macchina a vapore, la bomba sulla macchina a vapore. E sul binario stava la locomotiva. E ben ritrovati sulle onde di Radio Città Fuggì con l'Epida TV e Teletricolore. Siete sempre in ascolto e in visione di Liberi Dentro e di Radio TV. E come non poter non parlare di un argomento che purtroppo ci inquieta, cioè quello che sta succedendo, inondazioni, incendi, terremoti. Non possiamo tralasciare di parlarne insieme appunto dei cambiamenti climatici. Senza precedente, sempre più diffuso e in continuo aumento, sono queste le parole utilizzate per descrivere i cambiamenti climatici in corso a livello globale dagli scienziati che hanno realizzato l'ultimo rapporto del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite. Pubblicato a inizio agosto, il rapporto, che passa in rassegna i risultati di oltre 14.000 studi scientifici sul tema, è stato oggetto di ampia trattazione sui principali media di tutto il mondo per la gravità della situazione che è sotto i nostri occhi e che rischia di diventare ingovernabile qualora gli sforzi non vengano per promuovere appunto la transizione verso la costruzione di una società più sostenibile dal punto di vista ambientale non vengano urgentemente intensificati. È un tema davvero scottante. Immagino che l'Africa sia l'area più in sofferenza. Ignazio, la situazione più drammatica, come hai accennato anche tu, andando ad analizzare i dati dei rapporti suddivisi per regione, è quella appunto che vive il continente africano, dove l'incremento della temperatura e del livello del mare è superiore alla media globale. Un primato che si confermerà purtroppo anche nel futuro, incrementando l'inondazione e l'erosione delle zone costiere. In base ai dati resi noti, le temperature medie annuali in Africa sono infatti cresciute in una forchetta compresa tra lo 0,2 e lo 0,5 gradi centigradi ogni decennio a partire dal 1950, rispetto però a una media globale compresa tra lo 0,1 e lo 0,3. Secondo gli scienziati, la crescita delle temperature e l'aumento della frequenza dei fenomeni climatici estremi sarebbero legati a cause antropogeniche, cioè all'intervento dell'uomo, mentre praticamente è certo che la temperatura continuerà ancora a crescere fino ad almeno 2,5 gradi entro il 2050 e quindi ben superiore al limite dei 2 gradi indicato dagli accordi di Parigi. A livello invece subregionale, gli scenari mostrano una tendenza alla diminuzione delle precipitazioni nei paesi del Nord Africa e ovviamente conseguente aumento della siccità. In Africa occidentale le previsioni vedono un aumento delle inondazioni causate da un incremento dell'intensità dei fenomeni temporaleschi stagionali e minore capacità di assorbimento dei suoli causati dalla siccità e dal degrado dei suoli stessi, così come anche nei paesi dell'Africa centrale. Insomma, la situazione, Ignazio, è abbastanza complicata, francamente. E credo che sia necessario, impellente, prendere delle misure. Eh sì, infatti gli impatti della crisi climatica sugli esseri umani e le forme attraverso cui mitigare il riscaldamento del pianeta e le sue conseguenze sono argomento che sarà affrontato in un ulteriore rapporto che dovrebbe essere completato e pubblicato il prossimo anno. Speriamo soprattutto però che questo ennesimo allarme legato alle rapide mutazioni del clima venga affrontato dai leader politici che si riuniranno a Glasgow nel Regno Unito dal 31 ottobre al 12 novembre per partecipare alla COP26, che è l'annuale conferenza sul clima della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici, considerato da più parti l'ultimo appuntamento utile per prendere decisioni definitive e poter invertire la tendenza prima che sia irreversibile. Noi ce lo auguriamo vivamente, perché quello che abbiamo sotto gli occhi quotidianamente è veramente molto spaventoso. Bene, fermiamoci adesso, un po' di musica e anche le dediche a chi ci ha aiutato. Certo, la canzone che vorrei farvi ascoltare oggi è di un cantante musicista senegalese che si chiama Youssou N'Dour. La canzone si chiama Seven Seconds ed è cantata con la svedese Nene Cherry. E il brano è cantato in Wolof, inglese e francese, e parla dei primi 7 secondi positivi nella vita di un bambino appena nato che non conosce i problemi della violenza e del nostro mondo, e quindi tutto quello che succede. La canzone la dedichiamo a coloro che ci hanno aiutato ad essere qui con voi durante l'estate grazie alle donazioni al nostro crowdfunding di luglio. Quindi ringraziamo veramente tantissimo Eugenio Garavini, Luigi Sadiga e Katia Tugnoli. Ascoltiamo questa meravigliosa canzone. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds away, just as long. Waiting. Dopo aver ascoltato questa bellissima canzone di Yusundur, lascio la parola a Caterina Bombarda, che intervista una giornalista molto famosa della RAI, che si chiama Maria Cuffaro. A te, Caterina. E rieccovi, bentornati tutti i nostri ascoltatori, sempre su Liberi Dentro Due Radio TV. Come sapete, la nostra seconda parte di puntata è dedicata all'ospite, e oggi l'ospite del nostro programma è un volto noto della televisione, una giornalista di fama internazionale, lei è Maria Cuffaro. Buongiorno Maria e benvenuta. Buongiorno a voi. È un onore averti qui e noi adesso proverò a fare un po', dare un po' di coordinate di quello che tu sei e di cosa hai fatto. Conduttrice dagli anni 90 fino al 2018 del TG3, hai lavorato per Il Manifesto, inviata in India, Pakistan, Sudafrica. Nell'86 hai iniziato a lavorare anche per la radio, per i settimanali 7, Il Venerdì di Repubblica, anche documentarista, e ad oggi conduci sei conduttrice del TG3 Mondo. E ho cercato di dare queste brevi coordinate, ma per tanti anni sei stata anche inviata all'estero, dicevo, per l'appunto. Tant'è vero che in questo tuo bellissimo libro pubblicato anni fa, Kajal, Le vite degli altri, edizioni in prima tour 2012, hai raccolto un po' tutte le storie dal mondo, le stesse che hai incrociato nel corso della tua carriera. Quindi la prima domanda è: che cosa spinge una giornalista a coprire zone di guerra nonostante per l'appunto il pericolo? Beh, la risposta ti potrà sembrare banale, ma è soprattutto la curiosità di capire in che mondo viviamo e noi rispetto agli altri come ci dobbiamo porre. Quindi essenzialmente la curiosità è l'unico modo per affrontare le situazioni che sono anche molto diverse, ma spesso anche simili a quello che viviamo noi, anche perché diciamo gli esseri umani alla fine si assomigliano, e affrontare tutto senza giudizio, senza avere un pregiudizio, quindi con grande curiosità e umiltà, perché in fondo quando noi andiamo altrove siamo ospiti, siamo testimoni, e quindi il fatto di essere testimoni, cioè di poter avere il privilegio di vedere e di poter constatare ciò che succede, ci dovrebbe dare grande responsabilità. Maria, la tua esperienza ti ha portato a toccare in qualche modo il tema del carcere, perché intervistando torturati, torturatori, persone che comunque imprigionavano, dunque ti sarei fatta in qualche modo un'idea dei luoghi della privazione della libertà personale. Guarda, più che carceri, io per tanti anni, diciamo, sono stata inviata, con una bruttissima parola si dice inviata di guerra, perché poi, diciamo, andavi nelle zone di conflitto perché per raccontare ciò che stava avvenendo nel momento in cui stava avvenendo, e spesso questo era mentre c'era un conflitto, quindi no, non ho visto tante carceri, ma ho visto tanta privazione di libertà, ho visto tanti profughi, tante persone in diverse parti del mondo, li ho visti in Palestina, li ho visti a Gaza, li ho visti in Siria, li ho visti in Iraq, li ho visti in Africa, insomma li ho visti in India, in Pakistan. E quindi persone che fuggono e non hanno altro luogo se non a volte una tenda, a volte nulla. E ovviamente anche, diciamo, in situazioni di guerra, sì, lì mi è successo di incontrare, di andare a visitare i luoghi, le carceri, perché le carceri per Saddam erano i luoghi dove venivano buttati i dissidenti, gli sciiti, e comunque erano il luogo dove, tra virgolette, diciamo, veniva buttato chiunque non la pensasse come lui, oltre ovviamente, diciamo, all'uso tradizionale delle carceri, quindi a tutti coloro che commettevano dei reati. E sì, le carceri si somigliano un po' ovunque nel mondo, sono luoghi tetri, bui, in cui, diciamo, avvengono cose terribili perché non ci sono testimoni, perché è difficilissimo far uscire notizie, è difficilissimo ridare dignità. Il detenuto è come se venisse spogliato dal suo essere umano, quindi ciò che gli accade non interessa alla società. E quindi questo, diciamo, è, come dire, molto simile a quello che accade anche qui in Italia, come abbiamo potuto vedere ultimamente con le immagini di Santa Maria Capua Vetere, perché lì, come dire, improvvisamente ci siamo resi conto, dopo che è uscito il video, che anche da noi le carceri rimangono i luoghi, praticamente dei luoghi bui, dove può accadere di tutto e dove le persone possono essere umiliate. Ecco, il fatto dell'umiliazione, che il detenuto può essere umiliato soltanto perché è detenuto, questo l'ho visto dagli Stati Uniti all'Iraq, anche all'Italia. Questa è una costante, purtroppo. Ecco, esatto, hai toccato l'argomento un po' fulcro della nostra intervista, Santa Maria Capua Vetere. Chiaramente tu hai visto le carceri, le prigioni di tanti paesi nel mondo. E come valuti la situazione allora nelle nostre carceri? Credi davvero che sia il posto dove mettere i cattivi, tra virgolette? Ma messa così, diciamo, questo è quello che, diciamo, spesso si vuole raccontare, che mettiamo i cattivi lì e poi ne escono dei buoni. Ecco, questo probabilmente, se tu metti una persona in un luogo chiuso e la umili, non uscirà più buona, non uscirà più aperta verso la società, disposta a trovare un'alternativa. Ovviamente no, perché l'umiliazione crea rabbia, crea frustrazione. Un fatto appunto sulle pagine di tutti i giornali sono state le immagini di Santa Maria Capua Vetere. Come valuti i tentativi del nostro paese, ora che è in atto anche una riforma della giustizia, per dare alle carceri un volto più umano e, come dire, costituzionale allora? Guarda, in Italia noi abbiamo le contraddizioni, come in molti paesi. Noi abbiamo un carcere come quello di Bollate, dove il 70% di chi esce da Bollate non rientra nel sistema carcerario, quindi non torna a delinquere, mentre abbiamo situazioni, diciamo, nelle altre carceri, dove i recidivi, per così dire, cioè chi esce con rabbia, è invece, diciamo, inverso, diciamo, la maggior parte non trova altra via e non ha altri mezzi a disposizione se non rimettersi in un sistema che lo porta a delinquere. Inoltre, probabilmente, diciamo, quello che a me ha colpito un po', come dire, perché io sono abbastanza vecchia, io mi ricordo quando Pasolini, il grandissimo intellettuale che noi abbiamo avuto, cioè parlavano del 68, quando ci furono le cariche della polizia, quindi diciamo di un'Italia molto diversa, contro gli studenti, lui notò come i poliziotti erano tutti figli del popolo, tutti sottoproletari o proletari, che non avevano grandi strumenti se non la violenza. E forse questo, diciamo, c'è un gran lavoro da fare anche su chi lavora in carcere, quindi le guardie carcerarie, perché quello che mi ha colpito dalle immagini è vedere queste guardie carcerarie umiliare i detenuti, e alcuni di loro avevano i capelli bianchi, quindi persone di una certa età. Ci salutiamo qui, è stato bellissimo averti in puntata con noi e spero di averti ospite un'altra volta. Grazie di cuore, a presto. Volentieri, grazie a voi. Brothers, sisters, Rieccoci di nuovo insieme per salutarci con Liberi Dentro e Euradio TV, ma noi continuiamo ad essere presenti attraverso le nostre rubriche ed oggi è il giorno dell'Equipe Sanitaria che ci parla appunto della promozione della salute in carcere. E vi ricordiamo sempre che Liberi Dentro è su Lepida TV, Radio Città Fugico e Teletricolore dal lunedì al venerdì, mentre le rubriche le potete guardare e ascoltare tutti i giorni della settimana. Un caro saluto a tutti da Antonella Cortese, Ignazio De Francesco, Caterina Bombarda e il nostro tecnico Enea Flacco. A domani! Liberi Dentro e Euradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.